Allora, diciamo che praticamente lui ha promesso di tutto, ha promesso di risolvere la situazione in massimo 2 giorni e mezzo, perché tutti i tunisini presenti al momento sull'isola sarebbero stati trasportati, vabbè, sarebbero trasportati nei prossimi 2 giorni in Italia, nelle varie tendopoli che stanno costruendo in tutta Italia. Quindi l'isola in massimo 2 giorni e mezzo sarà abitata solo dai lampedusani, ha detto lui. Questo perché praticamente finalmente sono riusciti a trovare il modo per risolvere la situazione, cioè vogliono usare queste 6 navi, navi da trasporto passeggeri per spostare tutti gli immigrati nei vari centri. Poi ho detto che hanno fatto un accordo con il governo tunisino perché appunto controllino di più le loro coste, così da non far partire altri barconi. Ha detto che lui avrebbe comprato tutti i pescherecci tunisini, così loro non potranno più appunto avere i mezzi per arrivare qua. Che hanno fatto degli accordi con la Tunisia, per cui loro riaccoglieranno i ragazzi che sono venuti in Italia per scappare da una situazione difficile e invivibile, e quindi appunto secondo Berlusconi questi ragazzi saranno rimandati in Tunisia presto. Fondamentalmente oggi ad ascoltare Berlusconi e ad applaudire c'erano probabilmente 200-300 persone, 200-300 lampedusani, però effettivamente erano molto pro Berlusconi, infatti non hanno lasciato spazio a nessuna voce di dissenso. Noi avevamo preparato degli striscioni, però appena siamo arrivati loro ci hanno visto, ci hanno aggredito un po' verbalmente, un po' anche fisicamente, per cui hanno detto che non c'era spazio per i nostri striscioni, anzi hanno pure portato via un paio di striscioni che avevamo aperto, che stavamo mostrando. E quindi io sapevo che tutti loro comunque sono iscritti hanno registrato degli indagati per immigrazione clandestina, perché al momento appunto la legge dice che immigrare senza un visto regolare è un reato. Quindi c'è un numero immane di tunisini che appunto sarebbero probabili criminali secondo la legge italiana, però a questo punto bisogna vedere fino a che punto riusciranno a effettivamente fare qualcosa, visto che il numero è così grande. Secondo me loro in realtà i tunisini avrebbero diritto diciamo, all'aiuto internazionale o a un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, perché in effetti stanno scappando da una situazione politica ed economica di invivibilità nel loro paese, però ovviamente nessuno di loro ha delle informazioni legali adeguate, per cui quando arrivano nei centri in Italia, nei centri di detenzione in Italia, loro in genere scelgono di scappare perché non hanno nessuna idea di quello che appunto sarebbe un loro diritto, quello che appunto potrebbe essere un modo per prendere tempo a vivere per un periodo in una forma di legalità, visto che se loro comunque chiedono asilo possono stare fin quando appunto non viene presa una decisione definitiva, però appunto purtroppo non hanno loro i mezzi per conoscere le leggi italiane, facciamo già fatica noi a capirle visto che sono complicatissime, e noi cerchiamo di spiegarle un po' a loro, però ovviamente sono i turisti qua al momento sono talmente tanti che non riusciamo a spiegarlo, a parlare con una percentuale minima. Quindi, sì, alla fine è una situazione molto difficile per loro perché finiranno per essere clandestini, rischiare di essere effettivamente rispediti in Tunisia, come dice Berlusconi, anche se probabilmente avrebbero diritto a qualcosa in più.